Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, sono le 11 e quasi 09. Carmelo Lauricella invece c'è. Davvero non c'è quasi, c'è tutto in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Oggi abbiamo venerdì e quindi abbiamo il nostro ospite fisso, dottor Confalonieri, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti. E direi anche auguri, perché grazie, oggi compie gli anni, quindi una bilancia. Una bilancia, infatti sono un uomo di grande equilibrio. Se lo dice dal sì, me lo devo dire da solo. Va bene, no, sennò... ma è vero. Ci piace molto il dottor Confalonieri, quindi baci e abbracci e auguri. Grazie al dottor davvero. Confalonieri. Anche Carmelo ci dice che dalla bilancia festeggeremo anche lui il 15, quindi ce lo ricordiamo. Intanto sommario. Ai muscoli piacciono di più i carboidrati o le proteine? La bellezza degli anni. Appuntamenti da segnare in agenda. Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed esercizio fisico, né in difetto né in eccesso, avremmo trovato la strada per la salute. Prendo spunto da queste parole di Ippocrate per lanciare la puntata di oggi. Infatti vogliamo parlare di alimentazione, perché un corretto nutrimento, mettere la giusta benzina, ci aiuta a stare bene. 800 24 0024, questo è il nostro numero verde già a disposizione. I messaggi, come sempre, al 349 238 6666. Affianca oggi in questa trasmissione il dottor Confalonieri un altro ospite che voi già conoscete, il dottor Giuseppe Fatati, che è presidente dell'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica. Buongiorno dottor Fatati, bentornato. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Tra l'altro, auguri al dottor Confalonieri, anch'io sono una bilancia, sono nato il 12. Magnifico. Allora tra pochissimo ricambio gli auguri e ringrazio. Io sono gemelli e con la bilancia vado d'accordo, quindi sto benissimo tra due bilancine. E tra l'altro abbiamo fatto gli auguri al dottor Franco Confalonieri, ma facciamo anche gli auguri all'Obesity Day, dottor Fatati. Ma sicuramente sì, la nona edizione è un'edizione importante, l'Obesity Day nasce nel 2001, è riuscita a dimostrare come manifestazione una costanza e un successo crescente, e quindi è giusto fare gli auguri a una manifestazione che ha cercato di spostare l'attenzione dall'obesità come problema apparentemente estetico all'obesità come problema realmente di salute. A disposizione tante informazioni, anche la possibilità di andare nei centri che aderiscono a questa iniziativa, non dico per farsi dare una controllata, ma per capire esattamente, no, le dimensioni del problema e soprattutto gli aspetti per la nostra salute di questo problema, dottor Fatati. Sicuramente sì, è una giornata anche in un qualche modo e soprattutto di educazione, di informazione e direi di inizio di un percorso. Il senso della manifestazione di quest'anno è proprio far capire ai soggetti che per poter riuscire a tenere sotto controllo il problema del peso c'è la necessità di iniziare con un piccolo passo, un percorso che in realtà è un percorso lungo, che sempre più spesso viene demandato ad altri, nel senso che il paziente obeso cerca dei rimedi miracolosi nel ricovero, nell'intervento chirurgico, in altre l'intervento miracolistico comunque, e non si rende conto che in realtà la forza bisogna trovarla all'interno proprio di un percorso condiviso e fattibile e gestito insieme ad un'equipe seria. Insomma, ce la possiamo fare facendoci aiutare, soprattutto cambiando un po' mentalità. Allora, nel nostro sommario abbiamo parlato di carboidrati e proteine. Allora direi, dottor Confalonieri, capiamo subito che cosa sono esattamente i carboidrati, dove si trovano e che cosa servono. I carboidrati sono gli zuccheri, li possiamo trovare in forma semplice o complessa. In forma semplice li troviamo ovviamente nello zucchero, li troviamo in alcune bibite e li troviamo in alcuni dolci in particolare. In forma complessa li troviamo soprattutto nella pasta, nel riso, nel pane, in tutti gli amidi e in alcune verdure e in alcuna frutta. I carboidrati sono fondamentali per l'esercizio fisico, in quanto rappresentano il carburante di base. Noi depositiamo i carboidrati a livello muscolare in forma di glicogeno, e li utilizziamo proprio per ottenere l'energia necessaria alla contrazione muscolare e quindi all'attività fisica. Per cui una necessità fondamentale per chi fa sport è avere depositi di carboidrati a livello muscolare pieni e possibilmente anche dei depositi di riserva, soprattutto a livello epatico, ugualmente pieni. Dottor Fatati, a lei invece affido le proteine. Ma le proteine sono sicuramente hanno un ruolo altrettanto importante quanto quello dei carboidrati, hanno un ruolo soprattutto plastico e nell'esercizio fisico ci aiutano in un qualche modo a creare la massa muscolare. Purtroppo intorno alle proteine si è detto tutto il contrario di tutto ci siamo troppo legati a un vecchio concetto di uno scienziato che si chiamava Von Liebig, che disse che in realtà senza proteine i muscoli non potevano crescere, perché purtroppo soprattutto negli sportivi della domenica l'utilizzo di proteine spesso è incongruo o di prodotti che comunque si pensa possano apportare una maggiore massa muscolare. In realtà la quota dell'apporto energetico e l'apporto proteico sono tra loro sicuramente strettamente correlati, in quanto un ridotto apporto energetico fa aumentare il fabbisogno proteico, però è anche vero il contrario, nel senso che, come ha detto giustamente il dottor Confalonieri, se ho un giusto utilizzo dei carboidrati non ho poi necessità di tante proteine in più della norma per aumentare la massa muscolare, che è e deve essere legata soprattutto al giusto esercizio fisico. Nel corso della nostra trasmissione cercheremo di capire allora che cosa piace di più ai nostri muscoli, che cosa è giusto, qual è la dieta giusta per i nostri muscoli, anche in funzione dell'attività fisica che vogliamo svolgere. Intanto però, come d'abitudine, invito i miei ospiti a fare la domanda al nostro ascoltatore che ci sta seguendo da casa e che quindi può raccontarci qualche sua esperienza personale, oppure magari fare una domanda per chiarirsi un dubbio. 824 0024, dottor Confalonieri, che cosa vuole sapere dei nostri amici da casa? Voglio fare una domanda molto diretta. Siete amanti dei carboidrati o siete amanti delle proteine? State più attenti alla quantità di carboidrati o alle quantità di proteine nella vostra dieta? O per tradurlo ancora in modo più diretto, siete amanti della dieta mediterranea che privilegia i carboidrati o della dieta zona che privilegia le proteine? Scatenatevi, vediamo a fine puntata chi prevarrà. Da che parte penderà la bilancia, tanto per rifarci un po' il vostro segno zodiacale. Dottor Fatati. Ma è una domanda che gli farei se qualcuno... qualche esperto gli ha consigliato in realtà di consumare più proteine o più carboidrati, per capire anche un po' qual è la fotografia. Esatto, e in che mani si affidano. 824-0024, invece ci sono tanti anche che fanno da sé. Esatto. Ecco, magari. Leggono però, spesso leggono male, leggono dalle fonti sbagliate e facendo da sé si fanno anche dei grandi danni. Dimostrate invece che fate anche il giusto, quindi chiamateci per contraddire il dottor Confalonieri. Il nostro numero verde l'ho detto, invece per i messaggi 349-238-6666. Una mela al giorno. La bellezza degli anni. Nel titolo abbiamo voluto dare questo taglio al nostro spazio oggi dedicato al benessere, perché siamo un po' stufe delle donne costruite, delle donne mostro che si aggirano, no, per cancellare le rughe e i segni del tempo. Allora, in linea con noi ho chiamato una accanita sostenitrice della bellezza naturale, la dottoressa Serri, dermatologa, presidente di Skineco. Buongiorno. Buongiorno dottoressa Serri. Buongiorno. Allora dottoressa, non è si punta a Sharon Stone, perché le cinquantenni vedono anche sui giornali che si può continuare a essere bellissime, però l'alternativa a Sharon Stone sembra la sciurapina, sì. Ecco, con le rughe, i baffi e le borse della spesa. C'è una via di mezzo in tutto questo? Non è che possiamo... Ma è proprio questa via di mezzo che è direi la più importante, quella anche più interessata ai nostri discorsi, ai discorsi sul mantenersi bene, sullo stare bene, sul badare all'alimentazione, come dicevano gli esperti prima, e spero di essere una fonte autorevole a proposito di, vediamo un po' che fonti leggono le persone, e nei miei consigli cerco sempre appunto anche di consigliare l'equilibrio, come succede nel libro proprio sulle cinquantenni o su chi vuole affrontare i cinquant'anni. Un libro che io vi consiglio, che ho letto con grande piacere, soprattutto perché è proprio dedicato alle donne che stanno così dai 40 anni in su, possiamo dire, dottoressa Serri, sì, anche chiunque 50 anche anni, voglia solo capire una cinquantenne, perché io l'altro ieri avevo 28 anni, adesso improvvisamente ne ho 50 erotti e questo tempo è volato e non mi sento la sciurapina babiona che ho voglia di stare bene, di essere bella, ma non rinscemita. Ecco. Tutte ragazze, come affrontare con eleganza il tempo che passa, della dottoressa Serri, che è scritto anche insieme ad una bravissima giornalista di bellezza freelance, Anna Capelli. Dottoressa Serri, ma in pratica quello che voi sostenete è di usare la testa, quindi di invecchiare bene, di prenderci cura di noi. Ci sono molte donne che ricorrono anche a filler, iniezioni a vitamine, ecco, questo da solo però non basta, insomma, non basta risollevare la ruga, ci vuole altro. No, però diciamo che è la partenza quando viene il panico da prima ruga e ogni razionalità è persa. Allora può capitare di affidarsi a mani anche avide, purtroppo mi spiace dirlo, e che ti intortano su e ti convincono a fare di tutto. Invece bisogna fare un piano e affrontarlo non solo con razionalità, ma anche con una certa allegria e con un senso di accettazione giocosa, non passiva, della propria età. Cioè è bello avere la propria età, vuol dire che abbiamo vissuto, vuol dire che abbiamo anche tanto da dare e da dire, sfruttiamolo al meglio. Anche l'altra sera ho visto un servizio del telegiornale dove le cinquantenni erano suddivise appunto in sciurepine che andavano a fare la spesa, sovrappeso, sciatte, non curate, oppure Sharon Stone che non ci rappresenta, no. È una bellissima direi donna, direi che siamo molto diverse da lei, vive nel mondo dello spettacolo e vive esclusivamente per rimanere bella, certo. Cosa che non è di tutte noi che viviamo, lavoriamo, abbiamo problemi, amiamo e non abbiamo tutto, neanche il tempo mentale da dedicarci solamente ai trattamenti di bellezza. Per cui è importante valutare che cosa fare, ma nell'ambito di un progetto globale, cioè la punturina da sola, va benissimo la punturina, ma non basta. Non basta, allora io vi consiglio, dottor Confalonieri, io l'ho visto che si beava della dottoressa sì, Serri. Perché vero? Ha detto delle cose sull'invecchiamento e la bellezza dell'invecchiamento, che un giorno in cui entriamo nel 50° anno di vita è bello sentire. E poi dico, magari fate un piccolo sforzo anche per educare noi uomini, ma ad apprezzare la bellezza vera. Molti uomini dicono grazie perché riesco a capire meglio. Esatto. Scusatemi il termine, tutte le paturnie, stavo per dirne un altro, di voi donne. Dottor Fatati, lei è preparato? Preparatissimo. Allora, iniziate a guardarci con altri occhi e noi impareremo anche a occuparci di noi con un altro equilibrio. Insomma, anche questo è un lavoro d'equipo, di coppia. Certo, certo. Come è importante continuare ad amare. Spesso le donne, quando si avvicinano al momento della premenopausa, della menopausa, basta, si pensano finite dal punto di vista anche sessuale. Niente di più sbagliato, ma è una cosa che dice da sempre la mia amica Alessandra Graziottin, cioè si è ancora piacevoli, attive, e i signori che si mettono a guardare le ventenni che scendono dall'est, poverini loro, non sanno cosa si perdono. No. Dottoressa Serri, grazie per essere stata con noi. Ricordo Tutte ragazze, come affrontare con eleganza il tempo che passa, della dottoressa Riccarda Serri, scritto con Anna Capelli, freelance di bellezza. Grazie dottoressa Serri, a presto. Grazie mille a voi. Pronto soccorso. Inondati. tanti di sms al 349-238-6666, ne abbiamo già selezionato alcuni, ma intanto do subito la parola a Vincenzo che ci chiama da Bologna. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno, innanzitutto complimenti per la trasmissione e auguroni al dottor Confronieri. Sì, dottore. Io faccio il camionista. Sì. Io con i consigli del dottor Confronieri ero 96 e sono arrivato a 78. Ma no, per un attimo quando lei ha detto ero 96 ho tremato. No, perché sono contentissimo. Ecco, perché uno dice... Solo che non riesco a mandare via la pancettina. La pancettina. Quella lì è molto... Non riesco a capire il motivo. Che però, Vincenzo, per rifarci a quello che dicevamo con la dottoressa Serri, noi donne la pancettina la guardiamo con occhio benevolo. Invece voi uomini, le nostre pene rughe, il seno che un po' se cade, insomma, tutte le guardate con occhi critici, quindi imparate un po' da noi. Posso chiedere un'altra cosa per mia moglie? Io ho mia moglie che lei si è messa in dieta, no? Sì. Però fa la mattina, fa una colazione con latte e biscotti secchi, poi va avanti con a mezzogiorno della frutta e yogurt e la sera uguale, e io sono molto preoccupato. Ok. Vincenzo, allora, dottor Confalonieri e poi si fa dare una mano anche dal dottor Fatati. Sì, molto, molto rapidamente, intanto grazie per gli auguri, poi rispetto alla pancetta purtroppo è un problema difficilmente risolvibile, abbiamo detto più volte, noi perdiamo il grasso in modo globale, non in modo selezionato, e quindi l'ultimo grasso che perderemo sarà proprio quello negli uomini mediamente che si localizza sulla pancetta. Quindi il mio consiglio è: ok, abbiamo perso 8-9 kg, stiamo meglio, accettiamo la pancetta. Sicuramente, se ci sarà un ulteriore dimagramento, sarà anche a carico di questa zona. Relativamente alla moglie, dal mio punto di vista, siamo un pochettino fuori strada. Non basta la frutta come unico alimento nell'arco della giornata, magari torneremo su questo tema. Io consiglierei la colazione, è ok, latte più biscotti, consiglierei una moderata razione di carboidrati a mezzogiorno e una moderata razione di proteine in forma di legumi e quindi di zuppa piuttosto che in forma di carni prevalentemente bianche la sera, e probabilmente si ottengono gli stessi risultati senza squilibri. Dottor Fatati, vuole aggiungere qualcosa? Ma c'è poco da aggiungere, nel senso che qualunque alimentazione così monotona poi è destinata a fallire, perché la signora si annoierà e la sospenderà. Quindi infatti l'Obesity Day punta proprio sul gusto. Punta sul gusto, sulla varietà degli alimenti e sulla flessibilità della dieta. Se vogliamo seguire un'alimentazione corretta dobbiamo mangiare di tutto, mangiare più vario possibile, cercare di trovare nell'alimentazione quel piacere e quella soddisfazione che comunque è necessaria anche a far metabolizzare bene. Insomma, poco di tutto, troppo di niente. Esatto. Antonio. Questo può essere un buon consiglio. Antonio, da Brescia, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, complimenti alla trasmissione, a lei. Grazie. E volevo dirle che lei, nonostante carina, è più brava che bella. Ah, bene, guardi, questa mi fa piacere, perché è un complimento che sicuramente piace alla dottoressa Serri e a tutte le donne che investono nella testa, e anche se mi trova carina, questo mi fa anche, mi gratifica, sì, mi fa piacere. Grazie Antonio, è quasi il mio compleanno, mi dica. Volevo chiedere al dottor Confalonieri se può parlarci dei carboidrati a basso contenuto glicemico. Sì. Cioè il farro, l'orzo, se la quinoa. Ne parla il dottor Fatati va bene lo stesso, sì, vero? Sì. No, sembrava che carboidrati... Sì, ma noi li abbiamo perché... Antonio, approfitto della sua telefonata perché non è che questa divisione è voluta, perché il dottor Fatati è sostenitore delle proteine, il dottor Confalonieri dei carboidrati. Li mescoliamo proprio apposta in modo che ciascuno dei nostri ospiti vi possa dare delle indicazioni. Dottor Fatati... carboidrati a basso contenuto glicemico. L'ascoltatore introduceva un concetto che è quello dell'indice glicemico, perché al di là del contenuto dei carboidrati, quello che ci interessa dal punto di vista metabolico è che l'aumento della glicemia dopo l'assorbimento, e quindi l'indice glicemico del singolo alimento, non sia molto alto. Questo fa sì che in una società che sta andando incontro a una serie di malattie metaboliche, dal diabete alla sindrome metabolica, all'obesità complicata, alle dislipidemie, queste patologie siano controllate. Quindi il concetto è quello dell'indice glicemico dell'alimento, che però è una cosa molto varia. Ecco, io inviterei il telespettatore, per carità, meglio sicuramente e certamente meglio mangiare tutti quegli alimenti che hanno un indice glicemico basso, tipo i carboidrati complessi, la pasta, il pane e così via. Però teniamo presente una cosa, che spesso l'indice glicemico è un qualcosa molto particolare, che non è legato al singolo alimento ma a tutto il pasto. Nel senso, mangiare solo carboidrati, anche se è con indice glicemico basso, potrebbe voler dire non avere un indice glicemico tanto basso, perché se io aggiungo un po' di grassi l'indice glicemico si abbassa, e quindi l'indice glicemico del singolo alimento dipende da tutto il pasto. Ecco perché conviene fare un pasto completo e non un singolo, e non fare un pasto tipo monoporzione. Certo. E poi bisogna stare molto attenti ai tempi di cottura, perché tutto ciò che è molto cotto ha un indice glicemico più alto, tutto ciò che è al dente ha un indice glicemico più basso. Quindi l'indice glicemico dipende dal singolo alimento, dal pasto, dalla cottura, dai condimenti e, ultima variabile e non da sottovalutare, dal modo come noi assorbiamo gli alimenti. Quindi ognuno di noi, bene o male, ha per sua natura un modo di assorbire gli alimenti e quindi un indice glicemico in un qualche modo personale. Magnifico! La dieta giusta per i nostri muscoli, ma la dieta giusta soprattutto per stare bene. Ne parliamo con il dottor Giuseppe Fattati, il dottor Confalonieri. Dottor Confalonieri, Stefania ci scrive, 2 volte alla settimana fa la lezione di nuoto. Che cosa deve mangiare prima e dopo aver fatto piscina? Beh, dunque, è fondamentale, anche se fa nuoto, che affronti la lezione, quindi l'esercizio fisico, con un giusto carico di carboidrati. Quindi 3-4 ore prima un pasto a prevalenza di carboidrati per riempire i depositi muscolari, come dicevamo all'inizio, e poi una piccola ricarica di carboidrati, una crostatina, una barretta, al limite anche 1-2 frutti, una mezz'oretta prima, per stabilizzare la glicemia, cioè il livello dei carboidrati e degli zuccheri nel sangue durante l'esercizio, perché soltanto una glicemia stabile garantisce l'utilizzo ottimale dei carboidrati depositati a livello muscolare. Dopo può mangiare anche relativamente poco, però a quel punto il pranzo o il pasto potrebbe essere prevalentemente proteico. Un altro messaggio: faccio da me, se la sera esco in bici, pranzo, mangio più carboidrati e quando rientro più proteine. Domanda: fanno male le proteine in polvere? Dunque, il concetto del più carboidrati prima e più proteine dopo è corretto, soprattutto se ci concentriamo sul più, come diceva molto correttamente il dottor Fattati. Cioè l'ideale è sempre abbinare carboidrati e proteine. A questo punto, a pranzo, pasta o riso e un pochino di prosciutto magro, un pochino di grana, cena, una pietanza proteica, carni bianche, pesce o quant'altro, e magari 2-3 fette di pane, giusto per completare la cosa. Proteine in polvere possono far male, ma soprattutto se l'alimentazione è equilibrata e non siamo bodybuilder che hanno la necessità di incrementare in modo molto significativo la massa muscolare, sono inutili, e quindi le cose inutili fatto diventano dannose. Lo dice la parola stessa. Nunzia, dalla provincia di Bergamo, 800-24-0024, benvenuta. Grazie, buongiorno Nicoletta, tanti complimenti per la trasmissione. Grazie. E poi volevo ringraziare anche il dottor Confalonieri per i preziosi consigli che ricevo tutti i venerdì e che mi hanno spinto anche ad intraprendere un'attività, seppure moderata. Devo Bene, dire. Moderata ma continuativa, questo sì, è il segreto. Continuativa. Io volevo un consiglio, sì. Io sto facendo quella che si chiama la dieta zona. Sì. E ho perso fino adesso 8 kg, quindi diciamo che seppur lentamente sta andando bene. Però qualcuno mi dice che a livello proteico ci sono troppe proteine eccetera. Quindi volevo un consiglio dai dottori, sì, che sono lì, ecco, bene. Vale la pena di continuare. Da quanto Grazie. Tempo Nunzia sta seguendo questo regime dietetico? Dal mese di marzo. Dal mese di marzo. Dottor Fattati. entriamo in un campo minato. Sono ma contento che risponda il dottor Fattati. No, perché così adesso risponde anche lei, dottor Confalonieri. Non è che le domande difficili perché il suo compleanno non gliele facciamo. Gliele facciamo. Dottor Fattati. Ma allora, io penso che ciascuno di noi deve seguire quella che è un'indicazione così, diciamo, base per tutti gli sportivi, quello della dieta prudente, una volta si chiamava così. Diceva, vabbè, insomma, lo sportivo in fondo chi non fa, adesso lasciamo perdere l'atleta, sì, ma una persona che fa sport in maniera non agonistica, che cosa deve fare? Deve avere una dieta prudente. Sì. Altrettanto, a mio giudizio, chi ha deciso di perdere peso. La dieta zona, non dico che non sia una dieta prudente, tra le altre cose adesso è stata un po' modificata rispetto a quella iniziale, sono stati inseriti altri prodotti, però quando è nata con un'integrazione forte, quindi è vero che c'erano dei consigli dietetici, è vero che c'erano questo rapporto 30-30-40, ma è vero che c'era anche una forte integrazione. Sì. E allora già qui qualcosa può lasciare dei dubbi. Perché se io faccio una dieta prudente ho bisogno di un'integrazione, quello che diceva prima il dottor Confalonieri, se una cosa non è necessaria, non è necessaria perché la devo prendere, quindi questo già è il primo quesito. L'altra cosa è che tutte le diete fortemente bloccate su dei numeri così fissi sono delle diete monotone. E poi che cosa facciamo? Tutta la vita facciamo un 30-30-40 come mai questi numeri non sono poi quelli che in realtà corrispondono alle raccomandazioni, per esempio, dell'istituto dell'INRAN, l'Istituto degli Alimenti e della Nutrizione per la popolazione italiana? Quindi qualche dubbio, indipendentemente dal fatto dell'efficacia o meno della dieta, c'è nel proseguire un trattamento per periodi molto lunghi. E adesso, per darne un giudizio, bisognerebbe, perché poi certo, bisogna vedere bisognerebbe capire la dieta zona come uno la interpreta, se la interpreta in maniera flessibile o in maniera rigida, perché poi la cosa cambia molto, e gli stessi numeri se sono flessibili un conto, se sono visti in maniera rigida è un'altra. Però l'importante è, a mio giudizio, se vogliamo dare un consiglio alla signora, il non travalicare verso una dieta iperproteica che sicuramente potrebbe a lungo termine crearci qualche problema. Grazie dottor Fattati. Dottor Confalonieri, però arrivano molti messaggi di persone che dicono: faccio sport e grazie alla dieta zona sono dimagrita ma ho più potenza, è vero? Sì, io vorrei segnalare due cose molto semplici a completamento di quanto detto dal dottor Fattati. La prima: attenzione, è una dieta che, se seguita in modo molto rigoroso, è molto difficile da seguire, quindi inevitabilmente la seguiamo per poco tempo. Qualsiasi dieta dovrebbe essere strutturata in funzione dei nostri gusti, delle nostre abitudini di vita e della nostra organizzazione. Questo è il primo problema. Attenzione poi a un altro problema. Dovendo rispettare quel 30-30-40 di cui parlava il dottor Fattati, cioè 30% di proteine, di grassi e 40% soltanto di carboidrati, noi siamo necessariamente costretti a introdurre poche calorie, perché l'assorbimento delle proteine è limitato ed è legato al peso corporeo. Quindi se facciamo sport e abbiamo un aumentato consumo calorico, diventa praticamente impossibile seguire la dieta zona classica, perché diventiamo iponutriti. Non a caso poi nel tempo la dieta zona si è modificata incrementando la razione di carboidrati per chi faceva sport, ma venendo meno quindi un po' quelli che erano i presupposti di base di questa dieta. Quindi è ancora molto diffusa, è utile soprattutto perché ci obbliga ad una disciplina, e la disciplina soprattutto inizialmente perché in sovrappeso è utile, ma proseguita nel tempo rischia di diventare pericolosa soprattutto per chi fa sport di resistenza, cioè sport di tipo aerobico, e quindi consuma molte calorie. Allora, dottor Fatati, dottor Confalonieri, io riassumo numerosi sms di nostri ascoltatori che fanno uso di prodotti sostitutivi del pasto e mi raccontano chi ha perso 8 kg, chi ne ha persi 12, chi adesso ne sta rallentando il consumo ma li usa almeno 1-2 volte alla settimana come mantenimento. Io dedicheremo poi una puntata intera a tutti questi prodotti, ce ne sono di diverse marche, penso anche di diverse composizioni, insomma faremo un lavoro fatto per bene, ma dato che i messaggi sono tanti io vorrei un parere del dottor Fatati o un parere del dottor Confalonieri, poi dedicheremo una puntata intera. Dottor Fatati. Allora, per quanto riguarda i sostituti del pasto, adesso indipendentemente dai vari tipi, bisogna fare un ragionamento un po' generale, nel senso il sostituto del pasto se inserito in un programma e se gli viene dato la giusta importanza può andare bene, io non vedo non ho grandi remore nei confronti dei sostituti del pasto, ho remore quando qualcuno pensa di dimagrire prendendo i sostituti del pasto, sembra una contraddizione rispetto a quello che ho detto, ma non è così, perché dentro un programma ci sono alcune persone che non possono per motivi personali seguire, ossia fare un pasto regolare, cioè, sì. Il sostituto del pasto può andare bene, bisogna però far capire che all'interno di un sostituto del pasto norma equilibrato c'è tutto sommato un contenuto calorico e un contenuto nutrizionale che è presso a poco identico a un piattino di pasta asciutta, magari non tanto condito, ma senza grandi problemi. Sì. Però se si capisce questo e entra in un prodotto, entra in un percorso, il sostituto del pasto va bene. Se noi pensiamo di dimagrire perché prendiamo una barretta o un pasto preconfezionato come sostituto 2 volte alla settimana, non è questo. Non è assolutamente questo. Dottor Confalonieri, lei invece? Ma io sono più radicale, anche per quella che è la mia esperienza. Cioè io credo che l'alimentazione sia una componente fondamentale relativamente alla qualità della nostra vita, quindi ritengo impossibile vivere in modo continuativo con un sostituto del pasto e conseguentemente, siccome la continuità credo sia la base di qualsiasi regime dietetico corretto, sconsiglio fortemente l'utilizzo di questi prodotti. Allora, quindi siete di posizioni, è la prima volta che vi trovo relativamente diverse, un pochino diverse. Allora, andiamo a Grazia che ci chiama da Brescia. Grazia, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Io innanzitutto vi ringrazio per quello che mi insegnate tutti i giorni sulla medicina, sulle diete e su qualsiasi altro tipo di malattia. Dunque io ho un problema relativo, sono prettamente vegetariana, sì. Preferisco le proteine del pesce perché non mangio carne, soprattutto d'estate faccio una vita per 6-7 mesi, vivo sul lago di Garda all'aria aperta in una zona verde, coltivo le erbe, l'orto eccetera. Io d'inverno naturalmente, facendo una vita più sedentaria, ingrasso 3-4 kg che perdono regolarmente il petto, sì. Yo-yo d'estate. Perché a fare l'orto si consumano tante energie. Sì, poi è una cosa meravigliosa. Magnifica, sì. Anche sotto l'aspetto salutare, diciamo, sì. non usando allora, cose naturali. Grazie, a lei avanzano questi chiletti invernali che arrivano appena si ferma, ho capito bene? E ho una taglia 44-46 di cui che mi va benissimo, non ho problemi, non voglio dimagrire, però il giro vita di anno in anno vedo che non riesco a farlo calare. Dottor Confalonieri. Ma sì, qui è uno yo-yo relativo, nel senso che è uno yo-yo con piccole escursioni di 2-3 kg, però la telefonata di Grazia ci segnala un problema che invece è tra i più importanti parlando di nutrizione associata allo sport. Cioè è assolutamente sbagliato modificare le proprie abitudini alimentari certe stagioni. Mi spiego in modo molto sintetico. Ridurre fortemente l'apporto calorico in primavera per essere più magri d'estate comporta una ridotta capacità da parte del nostro organismo di consumare e invece aumenta la capacità del nostro organismo di assorbire gli alimenti. Quindi di fatto a parità di apporto calorico noi tendiamo ad ingrassare, per cui quando poi finita la dieta ricominciamo a mangiare come prima, se prima eravamo con un peso stabile adesso ingrassiamo. Ripetendo questa situazione più volte nell'arco della vita, noi ci condanniamo a dover mangiare sempre meno per mantenere il peso corporeo, quindi non c'è nulla di più sbagliato che cambiare le proprie abitudini alimentari in certi periodi dell'anno. Stefano da Viterbo, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per l'opportunità. Senta, io sostanzialmente volevo chiedere a entrambi i professori, non ha importanza chi dei sì, due. Sì, l'importante è che non le risponda io, lei ha messo già le mani avanti, eh? Va no, bene? No, no, dai, che sto scherzando. Allora, Stefano. Io ho 35 anni e sono un ciclista, diciamo, sfegatato, sì. Nel senso che ho ripreso da 5 anni questa attività sportiva che facevo nella prima gioventù, sì. E tenga presente, io percorro mediamente 400-500 km a settimana, per cui faccio degli allenamenti intensi, sì. E quello che volevo chiedere, le cose sono due, ecco, se posso rinunciare all'integrazione proteica, sì. E affidarmi solo all'alimentazione, perché io ho un sì. problema di mantenimento di massa, okay. non di incremento. E tenga presente, io ho un peso di 57-58 kg, un peso forma, su un'altezza di 1,70 m. E magretto, nonostante... però Mi scusi. Stefano, è bello magretto lei. Sì, sono piuttosto tirato, sono piuttosto magro. Nonostante questo. Sì, venga la seconda domanda, perché sennò il dottor Fattati non riesce a risponderle, perché i minuti corrono. Quindi, e se può rinunciare all'integrazione proteica? E la seconda domanda? Questo, la mia massa grassa è... non è molto, molto bassa, perché siamo intorno al 10% di composizione, okay. E nonostante allenamenti e alimentazione mirata e tutto, insomma. Dottor Fattati. Allora, qui siamo di fronte in realtà a un professionista, perché 500 km alla settimana comincia a essere senz'altro un quantitativo reale, no? di impegno. Sì. Beh, la massa grassa 10%, dico, non può scomparire, no? Ringraziando Dio che non scomparire, che non scompare, se no verosimilmente non rimane niente dell'atleta, quindi qualcosina dovrà pur rimanere. Per cui, per quello che riguarda la massa grassa, lui è molto magro, penso che ognuno ha la propria composizione, alla fine penso che non deve nemmeno mirare e assolutamente deve evitare l'estremizzazione. Non ho capito bene quanti anni ha, però, 36 ho capito, ecco, io. Deve assolutamente evitare, mi sembra, di eccedere nel Per quanto riguarda l'integrazione proteica? Per quanto proteica? Riguarda l'integrazione, facendo uno sport così anche di durata e di fatica, è normale che a un certo tipo di integrazione, ossia a prendere dei prodotti mentre va in bicicletta, dovrà assolutamente farlo, anche per evitare la crisi di fame. Se lui intende per integrazione l'integrazione che prende al termine dello sforzo con dei prodotti particolari come aminoacidi ramificati o altri, all'interno di una corretta alimentazione, se riesce ad evitarlo è tanto meglio. Andiamo a Clara, che ci chiama dalla provincia di Bari, che ci sta aspettando. Clara, buongiorno. Buongiorno. Vorrei rivolgere una domanda agli esperti. Io sì. ho una bambina di 10 anni sì. E vorrei sapere se è vero che bisogna privilegiare le proteine nella cena, diciamo, della bimba, perché mi hanno detto favorirebbero la crescita anche in altezza della bambina. Sì. Adesso non so se è vero. Se è vero o no. Proviamo a vedere. Dottor Confalonieri. Sì, è relativamente vero, nel senso che noi abbiamo una secrezione del GH, che è l'ormone della crescita, particolarmente elevata durante la notte, quindi se abbiamo una cena a prevalenza proteica avremo a disposizione questi aminoacidi durante la notte per essere depositati laddove vi è la necessità per ricostruire la massa muscolare o laddove vi è necessità per favorire la crescita delle ossa e dei vari tessuti dell'organismo. Quindi sicuramente in un bambino la cena dovrebbe essere prevalentemente proteica. E poi soprattutto deve dormire bene. sì, questo è meno correlato, se vogliamo, alle proteine, però speriamo che dorma comunque perché bene. L'ormone della crescita si attiva di notte, no? Sì. E quindi anche una buona dormita fa crescere bene. Io prenderei l'ultimo minutino di trasmissione risicato per il nostro consiglio di lettura, per darvi poi due appuntamenti del fine settimana. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop potete ricevere a casa il libro che si intitola Malattie della prostata. Per ricevere a casa questo libro dovete essere il primo ascoltatore a inviare un'email a esserebenessere@radio24.it con titolo del libro, recapiti e numero di telefono. E di prostata ci occuperemo proprio lunedì, quindi se avete già delle domande o se fissatevi questo appuntamento, perché lunedì ne parleremo insieme al professor Montorsi. In collaborazione con IBS.it. Abbiamo ricordato l'Obesity Day insieme al dottor Fatati. Vi voglio dare il sito per trovare tutti i centri: www.obesityday.org. E vi voglio anche ricordare che anche quest'anno torna nelle piazze italiane l'iniziativa solidale Una mela per la vita, due giorni per combattere la sclerosi multipla. Per saperne di più andate sul sito dell'AISM. Allora io voglio salutare il dottor Fatati che ci ha accompagnati in questa trasmissione. Dottore, davvero grazie, ci sentiamo grazie presto. Grazie a voi dell'ospitalità. Grazie. Dottor Confalonieri, tanti auguri ancora. Grazie, grazie a tutti, a risentirci venerdì allora, prossimo. Allora, sì, venerdì prossimo con 49 anni e una settimana. Esatto. Va bene. Allora, a domani per Questa casa non è un albergo, vi aspetta a mezzogiorno. Buonissima giornata da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.